cacciare, fare la vittoria, meglio sapere cacciare, fare la vittoria, meglio sapere cacciare. Non la società, e oggi ti ascolta.